È il 9 maggio del 1979, quando cinque donne di Radio Donna hanno appena iniziato la loro trasmissione settimanale per le casalinghe presso Radio Città Futura, quando un gruppo di giovani fascisti, tra cui Giusva Fioravanti, sale di corsa le scale, dà fuoco alle apparecchiature e inizia a sparare. Le cinque donne erano Anna Attura, 38 anni, Rosetta Padula, 35 anni, Carmela Incafù, 58 anni, Gabriella Pignone, 47 anni, Annunziata Molli, detta Nunni, 55 anni. Il 9 gennaio del 1979, Rosetta, Nunni, Gabrielle, Anna e Linda sono appunto in onda a Radio Città Futura, a San Lorenzo. Rosetta non avrebbe dovuto partecipare quella mattina, ma dato che il fonico del giorno si rifiutava di mixare per le donne, decide di andare frettolosamente alla radio, insieme a Gabriella, è l'unica in grado di far funzionare l'impianto audio. Oggi si parlerà innanzitutto di contraccezione. Nunni è pronta e dice allegramente a Rosetta, che sta manovrando l'apparecchiatura: accidenti ragazza, sembri una donna del 2000 con tutti quegli aggeggi attorno. Non è roba per me. Dammi bambini, fiori, musica. Al che Rosetta grida: stanno arrivando due uomini con pistole e mitragliatrici. Gli uomini hanno il passamontagna e per un attimo le donne pensano a uno scherzo. Uno di loro versa la benzina sull'attrezzatura, un altro getta una molotov a fiamme all'interno. Altri due uomini salgono di corsa le scale per arrivare in cinema. Lì tengono le donne sotto tiro. Immediatamente scoppia il fuoco. Nunni viene colpita da una fiamma lancinante, in faccia e sulle mani. Gabriella afferra la sciarpa di Linda per spegnere la fiamma sul viso di Nunni. Il risultato è che i suoi occhi vengono risparmiati. Usando i loro cappotti come battitori di stuoie, spengono il fuoco, odore di capelli bruciati. Mentre le donne cercano di scendere le scale, vengono colpite dall'alto e dal basso. Quella mattina i nuclei armati rivoluzionari sono tre, capeggiati da Giusfa Fioravanti. Gli altri due sono Dario Pedretti, ex leader del FUAN, e Alessandro Pucci. Anna viene scaraventata contro un muro in fondo alle scale, dopodiché viene colpita più volte all'addome. Anche le altre donne subiscono ferite d'arma da fuoco e gravi ustioni. Quando tutte e cinque sono in fondo alle scale, gli uomini continuano semplicemente a sparare. Una delle figlie ascolta la radio di casa e sente la madre che urla in preda al panico. «Cosa siete venuti a fare?» Gli spari arrivano in strada. I negozianti del quartiere accorrono, trascinano le donne fuori. Linda giace sanguinante sul marciapiede, dopo che un proiettile le ha trapassato una gamba. Un passante si toglie la cintura e la stringe intorno alla coscia, salvandola. Gli accorrenti fermano un paio di auto che portano le donne all'ospedale più vicino, il più velocemente possibile. Anna rimarrà lì per settimane, più morta che viva. Mercoledì 10 gennaio, un giorno dopo l'attentato, nel centro di Roma si svolge una grande manifestazione di protesta, composta per lo più da donne. Dario Fo e Franca Rame danno vita a uno spettacolo di beneficenza. Per il resto, i media italiani tacciono vistosamente. Quando le donne escono dall'ospedale, vengono tutte ascoltate dalla polizia. Quest'ultima non mostra alcun interesse per quello che le donne hanno passato. Viene chiesto loro solo il loro credo politico. 9 gennaio 2025, la memoria è un ingranaggio collettivo. Mandiamo un'intervista che abbiamo realizzato qualche giorno fa con una delle sopravvissute, Nunni, che oggi ha ben 98 anni. Sentiamo quindi questa testimonianza di Nunni, che ringraziamo. Innanzitutto dici come sei arrivata a 98 anni e che dieta fai? Ecco, appunto, la dieta durante la guerra, che ero piccola, quella è stata la base della mia salute. Carote e bastinache, che dico al mio paese, erano dei cavalli. Noi andavamo a rubare i cavalli che ci avevano i sacchi al collo, per con dentro queste carote continue e quelle altre nere, come si chiamano? Vabbè, come si chiama? E carube. Andavamo a rubare, io e la mia compagnetta, lei giocava col cavallo, io rubavo. E così sono arrivata a questa età, credimi, la base è stata quella, non c'è lo zucchero, non c'era niente, però ci sono arrivata. Dunque, quel giorno stavamo noi a trasmettere, come ogni giovedì mattina, le donne del collettivo casalinghe. Eravamo in cinque, io stavo al tavolino e Rosetta stava al mixer e ha detto a un certo punto: ma ragazze, stanno salendo dei ragazzi con i caschi mi dico, cioè, che non mi sento bene oggi, perché era talmente impossibile. Dice, no, non è vero, sono entrati in cinque. Giù sbiaffiare avanti col fratello e un altro due o tre, non mi ricordo, che hanno fatto i matti. Cioè, presenti i matti? Tanto è vero che io pensavo, questi sono drogati. Ma perché cantavano? Con l'itra, con la bomba che mi ha preso in pieno davanti sul tavolino. Tanto è vero che all'ospedale mi credevano fossi una donna di colore, perché ero tutta nera, con i capelli bruciati, e quello che più brutto è stata la mano, che ancora adesso mi dà fastidio, non posso fare tante cose, la mano destra. Poi c'erano le altre compagne vicino a me, Gabriella, Linda, guarda, l'hanno presa in pieno, perché poi noi siamo scappati sulle scale, loro ci hanno aspettati giù nel portone, e facevano il tiro a piccione, noi stavamo sui gradini e poi sparavano, non riuscivamo a scendere giù, quando siamo scese giù siamo cadute, Gabriele su di me, tant'è vero che io ho avuto solo un colpo alla gamba, se no pure io chissà che cosa mi facevo, invece Gabriele è caduto su di me, poverina, è rimasto, e lei poi se vedo lo devo a lei, perché in quel momento che loro sparavano e lei mi ha messo il golfino che c'aveva sulla sedia, me l'ha messo sugli occhi, ma a golo ha avuto dei fastidi agli occhi, vabbè, che nessuno ha riconosciuto all'ospedale militare, nessuno ha riconosciuto, e io invece ho avuto dei grossi problemi agli occhi, voglio la dire a quelli, vabbè. Comunque c'era Rosetta, c'era Anna, poverina, che Anna veniva di nascosto del marito, perché se lo sapeva il marito, poi quando l'ha saputo l'ha menata pure. Linda stava pure l'eco, perdeva sangue dalle gambe che non ti dico. Una macchina è stata così gentile, ci ha preso e ci ha portato all'ospedale. E io dicevo a Gabriele, questo mo muore, Linda mo muore, perché era tanto, tanto, tanto sangue che perdeva. E invece ce l'ha fatta. Solo che pure lei, cioè, è arrivato il marito e ci ha detto, io stanotte vengo e ti faccio fuori. Allora, lei per la paura ha chiamato aiuto e c'era un ragazzo che io mi ricordo che si chiamava Daniele, non so se era Epifani, non mi ricordo, Daniele, che è stato tutta la notte seduto vicino a lei con la mano in mano a dire, se viene tuo marito ce la fa con me, prima con me. Quindi questo ragazzo, allora ci siamo visti, poi sai il tempo, pure quelli erano giovani, hanno preso altre strade, per cui io non mi ricordo bene il nome. Linda purtroppo non c'è più, perché si è suicidata praticamente. Ha un bel giorno ha deciso di non mangiare più e non ha mangiato più, perché era proprio affilata da questo pensiero, da quello che era successo. Poi i figli pure, uno dei figli specialmente era trattato. Allora si è messo in testa e diceva, ragazzi, io devo morire. E dice, Linda, ma che sei scemo? Insomma, ce l'ha fatta. E lei ha seguito questo ragazzo, questo Daniele, che ha avuto. Daniele era un ragazzo che studiava medicina, però poi si era messo dalla parte degli infermieri e aveva fatto tutte le lotte che in quegli anni gli infermieri fanno, tanto per cambiare. Vabbè, e andava quando c'erano le cause, perché lui l'hanno messo in carcere a un certo punto. E una volta in un dibattito in tribunale, questo ragazzo si è tolto la camicia e abbiamo visto tutti i segni delle botte che gli avevano dato quelli del carcere. Quindi pensa che atmosfera a quei tempi, era così incredibile. Allora Nunni, fammi fare una domanda, come mai avevate deciso di fare questa trasmissione a Radio Città Futura? Che radio era e perché voi? Tu quanti anni avevi lì e quanti anni avevano le tue compagne? Linda era più anziana di me, io sono del 26, quanti anni tenevo? Io avevo occupato insieme ad altre donne, avevamo occupato il governo vecchio a Tassere, non so se lo sai questo palazzo. Certo. Vecchio palazzo ai tempi dell'Ottocento se veniva proprio dal governo, e poi era stato messo fuori uso, e noi donne femministe, tutte quante di qualunque colore, l'abbiamo occupato e siamo stati parecchi anni là. Poi invece è arrivata la Mussolini al governo e ci hanno fatto fuori, ci hanno mandato sempre a Trastevere in un vecchissimo edificio dove nei tempi passati mandavano le donne peccatrici. Certo, il buon pastore. Eccolo, bravo. Quello serviva a quello. Io veramente il buon pastore non ho avuto nessuna... Ci sono andato un paio di volte, ma basta, non ci sono andata più perché non era il mio habitat. Io ho lasciato il cuore al governo vecchio, perché l'avevamo occupato, abbiamo passato giornate tremende. Vabbè, a questo mio... essere al governo vecchio si erano radunate alcune donne, perché io parlo come mangio, e quindi queste donne, alcune, poi piano piano ci siamo ingrandite, siamo diventate proprio tante. E allora, siccome c'era questa radio Città Futura che era di Rossellini, sempre a San Lorenzo, sì, che era quel bel rione di Roma, tutti i compagni, allora adesso non è più così, ci sono gli snob che abitano a San Lorenzo. Allora ci siamo appoggiati a loro, noi pagavamo una retta, pagavamo un tot, riunivamo ci volevamo dalla spesa. E io mi ricordo quel giorno dell'attentato, avevo fatto una spesa, perché siccome avevo poco tempo, abitavo lontano, abitavo a Cecchignola, allora nei ritagli di tempo prima di andare in trasmissione avevo fatto la spesa, e mi è tanto dispiaciuto che si è bruciato tutto quel giorno. Tu non hai visto mai le fotografie dell'attentato dopo? Sì, ho visto un sacco di cose. Poi hai visto quell'ammasso? Che tant'è vero, in Olanda, le compagne olandesi che ci hanno invitato, e non si rendevano conto, dice: ma come siete uscite vive da qua? Perché effettivamente è stata una cosa tremenda. Ed era questo Rossellini, il figlio del regista, che ha fatto questa radio, che però, devo dire la verità, non ci sopportavano. I ragazzi non ci dicevano nemmeno buongiorno, ci salutavamo, manco ci rispondevano. Erano molto di elite, non lo so che tenevano in capa. Comunque noi ci andavamo lo stesso, perché che ce ne fregava, basta che ci avevamo loro da poter parlare. E pensa che mi sentivano persino a Milano, perché era collegato con Radio Popolare di Milano. Certo. Ed è stato bellissimo quando sono andata da mia figlia che lavorava a Milano. Queste donne che mi hanno abbracciato, che mi sentivano, è stato molto bello. Così come è stato bellissimo in Olanda, in Francia. Senti, io mi fa la pelle d'oca quando mi ricordo l'arrivo ad Amsterdam. Le donne, le ragazze di Domitilla, che era un gruppo di donne, Domitilla, si erano messe tutte in fila sul binario di fronte a quello nostro, dove siamo arrivati, e ognuno di loro aveva un tulipano. Guarda, è stata una cosa meravigliosa, perché poi è diventato un grande fascio di tulipani che potevano portare, perché erano tante le ragazze. È stato molto molto bello. Invece in Italia le cose non sono andate così, assolutamente. Ringraziamo Britt De Jong per il libro Radio Donna, l'attentato in 5 lettere a Simona, perché grazie a questo libro siamo venuti a conoscenza dell'importanza dell'unione tra le donne del collettivo di Roma, di Nunni, e il collettivo Domitilla di Amsterdam, che ha anche seguito il processo, che è iniziato il 12 dicembre del 1984 nell'aula bunker. 56 componenti del gruppo fascista Denar sono stati convocati in aula. Sono seduti in gabbie sbarrate ai lati, sorvegliati da un gran numero di poliziotti. 7 di loro hanno commesso l'attentato a Radio Donna. Sembrano tutti molto giovani. Lì, dietro le sbarre, sembrano spassarsela. Durante la custodia cautelare non si sono visti per anni. Si abbracciano, parlano, si divertono. Una delle donne sbaciucchia uno degli uomini. Si sbracciano con i saluti ai conoscenti, nella tribuna d'onore. Abbiamo dovuto lasciare a casa il nostro striscione con la scritta «Donne olandesi solidali» su consiglio della Lagostena. Lei dice però che dall'Olanda sono arrivate più di 1000 cartoline di sostegno. Oggi è una giornata cruciale, il collettivo delle casalinghe, il Comitato Nazionale Femminista per la Giustizia, insieme a noi, sostenuto da 22 organizzazioni di donne olandesi, saranno accettati come parte civile? Il presidente del tribunale dà l'avvio ai lavori processuali. La giuria è composta da 17 persone, 8 donne e 9 uomini. Da un lato sia del pubblico ministero, dall'altro i segretari che verbalizzano. Una fila è composta dalle vittime dei reati, al centro siedono gli avvocati, testimoni e la stampa. Tutte le donne venute per Radio Donna sono state fatte sedere in modo dimostrativo su un lato della tribuna del pubblico. Le donne di Radio Donna hanno 10 avvocate, guidate dalla Lagostena. Passa un tempo interminabile nella lettura dei nomi degli imputati e dei 180 reati. Il procuratore fa poi un discorso in cui viene delineato il contesto politico che giustifica la dichiarazione di ammissibilità delle parti civili. Gli avvocati De Nar presentano obiezione a tutte queste richieste. Segue un'ora e mezza di attesa, ma la nostra richiesta di costituirci parte civile viene accolta. È il gennaio 1985, torniamo in aula, quando Giusva Fioravanti ha chiesto di incontrarci, come se 6 anni prima avessimo preso un caffè insieme e lui lo volesse farlo di nuovo. Naturalmente abbiamo rifiutato. Il pubblico ministero ha chiesto a Giusva se fosse stato lui a crivellare Anna con il mitra e se avesse sparato mentre Anna giaceva già ferita a terra e se lui si fosse reso conto che poteva già essere morta. Ha risposto di sì. Il 23 marzo il pubblico ministero afferma che gli aggressori fascisti De Nar non miravano ad attentare alla vita delle donne, ma a distruggere le apparecchiature della radio. Quindi secondo lui l'attentato non è stato un tentativo di omicidio preterintenzionale. La cosa ci ha fatto molto arrabbiare e ha fatto arrabbiare anche i nostri avvocati e tutta l'Italia femminista. Il 2 maggio del 1985 arriva il verdetto. Secondo il giudice, non si può parlare di tentato omicidio. I fascisti vengono condannati per incendio doloso e lesioni. Hanno ricevuto una condanna lieve, meno della metà di quella richiesta dal pubblico ministero. Voi facevate questa trasmissione, l'avete iniziata in che anno e di cosa parlavate? Parlavamo di tutto, perché ognuno di noi sentiva, ecco, sentivamo prima pagina, sentivamo, e poi ne discutevamo insieme i problemi, cominciavano i ragazzi con la droga, cominciavano i ragazzi a scuola a non studiare, è stato un momento brutto, si erano allontanati tutti dalla scuola, poi invece siamo lì. Poi la cosa, il clou è stata la morte di Giorgiana Masi, che ci ha tenuto in piedi per più di un mese, facevamo una trasmissione su Giorgiana Masi. Io mi ricordo quel giorno che stavamo lì, che stavamo passando, era un gruppo molto numeroso di donne e c'era Giorgiana con un fidanzatino. A un certo punto è arrivata la polizia e è cominciata a sparare. Così, che niente, non stavamo facendo niente. Allora Giorgiana, poverina, ha avuto paura. Ha preso la mano del ragazzo e si sono messi a correre sul ponte. Non l'hanno sparata, l'hanno presa alle spalle e Giorgiana è morta. Abbiamo avuto dei momenti molto difficili, molto brutti, molto molti. Vabbè, noi almeno nessuno di noi è morta, però certo. Ne abbiamo passate di conseguenze. C'è Rosetta che sta ancora sulla sedia ad hotel, sono passati tanti anni, ma lei se n'è andata in un paesino sperduto del Lazio e vive là, il marito è morto e adesso vive da sola, ma su questa sedia ad hotel, perché non c'è più ripresa psicologicamente, non c'è più ripresa. Vabbè, insomma, sono tante le cose che potrei dirti, ma quello che mi dà più fastidio quando dopo anni si sono qualcuno ha fatto il miracolo di fare il processo, andiamo al tribunale, non ti dico quando sono arrivati i familiari di questi Giusva Fioravanti e di quegli altri tre, non ti dico le parolacce che ci hanno detto, e nessuno del tribunale è andato a dire stati visiti, niente, nessuno, siamo state investite da questa pletora di parolacce. In più c'era Enzo Biagi, mamma mia, con i parenti, naturalmente con i parenti dei fascisti, che ci guardava e sorrideva. Siccome siamo stati chiamati una alla volta a deporre, io ero l'ultima e stavo aspettando che mi chiamassero. Mi sono talmente arrabbiata che sono andata e gli ho detto: senti, tu la devi finire, ridi sulla faccia tua, ce l'hai uno specchio, guardati e ridi, guarda la vergogna, schiaffi. Il nonno c'era un vecchio fascista, ma tu te ne, che cosa vuoi, sei zitta, vattene, non ho parolacce proprio, e nessuno che ci ha difeso, nemmeno le altre donne che stavano, no, guarda come si sono comportate le altre donne nei nostri riguardi, almeno nei miei, non le ho viste, non le ho sentite. Perché questo fatto vostro è stato messo nel dimenticatoio? Perché nessuno ne parla? Non lo so. E tu che risposta ti sei data? Perché eravamo donne e dovevamo stare a casa a fare i servizi, a pulire il... Beh, non mi fa parlare oltre. Come si permettono le donne, certo, di parlare di politica, di scendere in piazza, di dire alle figlie non vi sposate, che è meglio se vi state a casa con mamma invece di sposare con un uomo che fa il buono e poi dopo, il giorno dopo, io, a me è capitato questo due volte, io mi sono sposata due volte, beh, prima tutto dolce, tutto buono, il giorno stesso che è cambiato tutto. E io penso che il secondo marito, il primo era dell'aviazione, il secondo era dell'esercito. A me mi toccava stirare due camicie al giorno, uno militare e uno perché non usciva con le altre donne, quindi ci voleva la camicia civile, hai capito? Quando poi non ne ho potuto più e l'ho mandata a quel paese, è finita, hai capito? Nunni, vorrei tornare sugli argomenti che trattavate in trasmissione. Quali erano gli argomenti che sentivate per voi importanti? Quelli sulla casa... sì. Il salario piuttosto che la violenza, e parlavate anche del rapporto. La violenza dei mariti, dei figli, perché anche i figli non scherzano, a quei tempi seguivano. E ripeto, Linda aveva due figli, uno meraviglioso che aveva scoperto la radio e aveva detto alla mamma, va. L'altro peggio del padre, che è passato con i suoi. Anna veniva di nascosto perché se il marito lo sapeva, sai che faceva il marito prima di uscire? Svuotava tutti i vasi da fiore e quando tornava li doveva trovare tutti messi a posto, ripuliti, hai capito? Questi erano gli uomini, non so adesso se ci sono ancora. I miei mariti, due campioni, quindi per favore, non parliamo di uomini. Non parliamo di uomini perché mi tremano le mani al pensiero. Comunque noi parlavamo di questo, parlavamo della scuola, delle ragazze che dovevano studiare, lavorare. Beh, per esempio il part-time io l'ho combattuto tanto all'inizio, invece poi mi sono accorta che ho sbagliato. Il part-time per le donne può andare, specialmente se c'hai figli piccoli, può andare. Ma all'inizio ero contraria come una matta, invece poi piano piano ho rivisto le cose con un altro occhio. Poi ma di tutto, persino ecco, dalla spesa. Il fatto che io ho fatto un guaio, perché come io compravo la carne congelata dall'Argentina, un giorno ne ho parlato in radio, così è capitato, non mi ricordo. Insomma, si sono ribellati i macellai romani, non l'hanno chiuso questi negozi dell'Argentina? Che poi la signora era così contenta che ne avevo parlato, poi invece mi venne a dire che l'avevano chiuso, ma io non mica l'ho fatto apposta. Io dicevo alle donne: non spendete tanti soldi, perché la carne dell'Argentina è molto migliore della nostra e costa un terzo. Vabbè, questo era un... Ma poi ecco la droga, specialmente sulla droga, sulla scuola, su tutto. C'era ogni giornale e quindi quando capitava un titolo ne parlavamo. Questa era una specie di rassegna stampa. Poi voi siete andate anche a Radio Onda Rossa perché vi trovavate lì a San Lorenzo e quindi... No, Onda Rossa, solo io e Linda avevamo dei rapporti. Invece quel giorno, dopo l'attentato, mi hanno portato dal questura, mi hanno tenuto in piedi, in quelle condizioni, quei due porci. Beh, non ho altra parola, dei due secondi, due questurini sbarracati sulle sedie e io in piedi in quelle condizioni, che so io che vabbè. Poi dopo i compagni di Onda Rossa hanno detto: vuoi venire da noi a dire qualcosa? E beh, e sono andata. Lì mi era preso un mal di stomaco tremendo. Credevo fosse fame. Allora disse: ragazzi, ho fame. E il famoso panino con la mortazza, che è rimasta famosa nella mia vita, non me lo scordo mai quando era buono. Perché mangiando, capivo, dicevo, sono viva. Se sto mangiando il panino, sono viva. Quindi sono grata a quel compagno che è andato alla salumeria a farmi il panino con la mortaccia. Questa tua intervista, Nunni, sai che andrà su Radio Onda Rossa, che dal 1977 ancora trasmette sugli 87.9, sempre senza pubblicità, sempre con la militanza politica, sempre da San Lorenzo. Bravi, bravi, bravissimi, bravi. Ma io e Linda lo sapevamo, perciò andavamo, stavamo a sentirli, mentre gli altri non torcevano il naso. Invece noi due abbiamo sempre seguito, e come, li conoscevamo, e poi i nomi, vabbè. E questo fatto non me li scorderò mai, per quel giorno che sono stati così gentili a venirmi a prendere, a portarmi alla radio, il famoso panino. Sono stati molto affettuosi, molto, molto, e sono contenta che continuano adesso. Solo che, per esempio, qui dove abito io a Spoleto, Onda Rossa non esiste. Radio Radicale non la sento più, perché l'ho sentita a quei tempi, poi si sono comportati talmente male nei miei riguardi, cominciando da Francesco, che diceva: magari avesse avuto una mamma come te, e mo, vabbè, lascialo stare Francesco, che è un dolore, mi fa male a ricordarmi che, come può un uomo cambiare da un momento all'altro. Vabbè, io la sentivo così in passando, Radio Radicale. Ho fatto molti tavoli, perché io credevo e credo a questo sistema di chiedere alla gente di fare, quindi l'ho fatto, ma mi sono arrabbiata nera. Non lo so adesso come sono le cose, non lo so, ma allora l'unica donna era grande, Adele Faccio mi ha seguito tutta la malattia, tutta la ripresa della vita, perché i primi tempi sono stata proprio male, non connettevo più, ma piano piano, l'unica donna che mi è stata vicina, di tutte le razze, di tutti i colori, l'unica donna che mi è stata vicina è stata Adele Faccio, e non me la scordo mai. Però diciamo che le donne che hanno fatto politica, che hanno voluto mettere parola sul pubblico, no? Sulle cose pubbliche, cioè sulla politica invece che sempre sulla casa, eccetera, ma prendere parola pubblica, hanno pagato caro. Noi sì, noi più di così non poteva. Cioè, Anna è stata in coma più di 15 giorni. Noi credevamo che fosse morta. E lei racconta che l'ultima cosa che ha capito, ha visto, quando la portavano in ospedale, era la pioggerellina, e lei ha pensato: ecco, è l'ultima pioggia che vedo. Guarda, se ti raccontassi tanti episodi. No, sì, noi abbiamo avuto molto più vicinanza tra donne all'estero, sia in Francia, sia in Olanda, dall'America. C'ho un sacco di telegrammi, di lettere delle donne. No, guarda, nei miei riguardi non ho visto nessuno, solamente a delle facce. Perché? Perché noi veramente abbiamo fatto politica, non ci andava bene niente, abbiamo detto quello che volevamo, che ci passava per la testa. Qualcuno alla radio ci disse: ma voi siete esagerate, ma voi... E le disse: no, non ci volevano più nemmeno alla radio Città Futura. Nunni, un'altra domanda ti volevo fare, sempre di quell'epoca. Tu mi hai detto che le donne, quindi... le tue amiche, insomma, le compagne che stavano anche compagne che stavano anche durante la trasmissione, sì, spesso venivano anche di nascosto dai mariti. Che situazione familiare avevano? Quindi facevano una ribellione proprio a cominciare dalla famiglia, dall'obbligo matrimoniale. È venuta di corsa, ha detto: Anna, che si è arrivata tardi, e dice: se non ci andava mio marito. Vengo di nascosto, quell'altra viene di nascosto del figlio, sono quello. Tu pensa, io per fortuna il marito l'avevo cacciato a pedate, quindi non avevo nessun problema. C'avevo i figli, i ragazzi che stavano a casa con me e quindi ho fatto di tutto. Tu non hai idea dei lavori che ho fatto pure di arrivare alla fine del mese, perché mio marito, colonnello dell'esercito, non ci passava una lira. Quindi, lascia stare, guarda che posso raccontarti cose da matti. Vabbè, poi la cosa più bella è stato il periodo, tu forse non lo sai, a Trastevere c'era un bel locale di compagni che si chiamava Murales. Era molto bello, io cucinavo per tutti, c'è stato un periodo. A mezzanotte me ne andavo perché c'era l'ultimo autobus e gli autisti mi volevano tanto bene, mi aspettavano se facevo tardi. Guarda, non posso raccontare tante cose belle ma tante cose brutte. Comunque, perché è stato un esempio a tante donne, cominciando dalle mie figlie, dalle mie nipoti che sono meravigliose, e adesso dalle mie pronipoti, che ormai hanno 14 anni e seguono la nonna matta. Perché poi al mio paese, a Bari, io sono stata, mamma mia, massacrata. Mi hanno detto che ero una pazza, che questo, che quella. Parenti che non hanno più trattato mie figlie. Insomma, da romanzo d'appendice. Vabbè. Perché no, che famiglia venivi tu, Nunni? Ah, una famiglia strana. Perché mia mamma apparteneva a una vecchia, un'antica famiglia calabrese, molto dissestata. Tanto che avevano venduto pure la tomba di famiglia, è uno. Invece mio papà, che lavorava al giornale dalla Gazzetta di Bari, veniva da un paese, da una famiglia semplice, paese, sai, quelle contadini un po' abbienti, che hanno molti soldi, hanno più terra, da quello. Papà aveva studiato, a differenza dei fratelli, aveva studiato e lavorava a questo giornale, era ragioniere, insomma, ecco, quindi per quei tempi ragioniere, perché io sono nata tanti anni fa, mio papà era del Novecento e a quei tempi un ragioniere era una scuola importante. Mamma invece aveva fatto pure le ragionerie, era stata l'unica donna di tutto l'istituto, lei e la sorella, due sorelle che avevano fatto, ed erano le uniche donne. Poi hanno dovuto lasciare la scuola perché sono state talmente massacrate dai ragazzi, nessuno l'ha aiutato, dei professori erano i primi a dire: ma voi che state a fare qua, andate a casa, e pensa che tempi, Beh, io vengo da questo crogiolo di varie... E come sei arrivata a Roma? Io? Perché il mio primo marito, il primo marito è morto subito, dopo 3 anni, perché era pilota. Gli italiani sono molto bravi. Quando gli americani se ne sono andati, hanno lasciato un sacco di aerei, ottima. Allora gli italiani, i motoristi e gli ingegneri hanno avuto la bella idea di metterli, assemblare i vari pezzi e farne addirittura uno stormo. Questo stormo ne sono morti 3 e finalmente si sono decisi a smontarlo. Il primo a morire è stato mio marito, che era stato appena nominato tenente, quindi era giovanissimo. E siccome a quei tempi le pensioni erano ridicole, io immediatamente non potevo fare la figlia di famiglia. Ne sono andata a Roma, al ministero, e ho detto: signori miei, io devo lavorare, che posso fare? Allora ho fatto un corso di meteorologia e sono diventata cartografa, perché quello che vedi adesso, prima si faceva tutto a mano, quei disegni, l'Italia con i vari paesi, con i vari, qua c'era la nebbia, qua pioveva, insomma tutto a mano, con una penna doppia, bianca, rossa e nera, ti racconto, vabbè, e ho lavorato parecchio. Scusi, avevo una figlia di 6 mesi che mi metteva a fare la vedovella in casa di mio padre. No, mi sono messa a studiare, ho lavorato. Poi, sai com'è, chi insulta, com'è, chi disprezza compera. Un giorno sono venuti gli amici del marito morto, che non c'era più, e mi hanno detto: guarda, lui vieni a vedere che al bar di linea c'è un ufficiale dell'esercito che c'ha paura di salire sull'aereo. Figurati, io mi sono scatenata. Beh, non ha finito che me lo sono sposato? Ecco, che è proprio vero, che mi sprezza con me. E poi è stata una rovina, ho avuto altri 3 figli, poi l'ho messo fuori di casa perché non era possibile. E quando hai incontrato la politica? Diciamo che la tua famiglia era una famiglia politicizzata? Quando c'era mio marito, il secondo, io sentivo, lavoravo, perché non potevo farlo sapere a lui, se no era militare, abitavamo a Cecchignola, che poi a Cecchignola, quando è successo l'attentato, mi hanno cacciato nel giro di 10 giorni, hai capito? Mi hanno cacciato a me con tutti i 3 figli. Vabbè, io quello che posso raccontare è roba da matti. Comunque, e quando era di nascosto, che sentivo, leggevo tanti libri, tante sulle donne, sul femminismo, ma di nascosto. Poi quando finalmente l'ho cacciato e si è tolto dai piedi, io sono entrata come un razzo nella politica, diciamo, che allora non mi sembrava politica, mi sembrava erano le donne del governo vecchio, e poi è diventata una cosa più grande, più grossa, più grande di noi con la radio. Si era sparsa la voce un po' tra la radio, un po' tra di loro, e venivo: dove sta Nunni, dove c'è il collettivo Casalinghe, dove sta, che poi il collettivo Casalinghe, di Casalinghe ce n'erano 2 o 3. Gli altri erano tutte maestre, ce n'era una tanto cara, che era docente all'università, che poi si è uccisa grazie al marito, ringraziando quello schifo d'uomo. Poi c'erano insegnanti, c'erano molte impiegate. Certo, quando tornavano a casa tutti eravamo casalinghe. O no? C'era da pulire casa, da cucinare, da i figli a studiare, eravamo casalinghe. A metà la mattina eravamo in ufficio, altri lavori, affaccendate, e il pomeriggio, il giorno, eravamo casalinghe a tempo pieno. E quindi c'era, ma guarda che era diventato enorme. Noi ci avevamo una stanza al governo vecchio, grandissima, e non bastava. Tanto erano le donne che venivano, e poi quelle alla radio ci sentivano tante. T'ho detto, pure a Milano, con Radio Popolare, che faceva collegamento con noi. Ma è stata un'avventura, peccato che è finita, peccato. Io guarda, cioè, se ci avessi delle mani, Giusma, io vorrei sapere chi è che protegge Giusma Fioravanti, nonché la mogliettina, la cara Francesca. Come si chiama? Francesca? Mambro. Brava, Francesca Mambro. Chi protegge? Questi fanno i fidanzatini, i mariti, i giovani, gli sposini. Chi è che li protegge? Dopo il fatto nostro, che hanno avuto un... Guarda, Tina Lagostena Bassi era un avvocato di grido. Lei venne fuori con la storia del Circeo, no? È diventata famosa, anche all'estero la conoscevano. Mi ricordo in Olanda mi chiedevano di Tina la Bossena Bassi. Ma manco lei è riuscita, perché sì, c'era il pubblico ministero, che era un tirapiedi di Berlusconi, che poi ha fatto carriera, una carriera sempre con Berlusconi. Questo ragazzo, poi c'è stato, dopo di noi, Bologna. Lui stava là, come mai non nessuno ha fatto niente, se è scappato dal rotto della cuffia, se ne andò. E poi nessuno, ma tutto quel che ha combinato Giusto più avanti con la moglie, niente, stanno a fare a casa, belli, tranquilli, addirittura scriveva su qualche giornale, assolutamente. Perché, com'è finito il processo? Con 4 mesi, 4-5 mesi, che quello ha detto che non sussisteva, quella, insomma, a schifo. Tant'è vero che Tina Lagostena Bassi ha mollato pure lei. Ecco, perché eravamo donne. Figurati se era un uomo, che cosa succedeva? A uno, due, e noi eravamo tante. Perché poi tutto il collettivo ne ha subito, no? Si è sfasciato, qualcuno è rimasto, qualcuno ha avuto paura, qualcuno, insomma, è finito. E io con un nodo alla gola proprio, te lo dico, è finita questa avventura meravigliosa. Che queste cinque donne che andavamo noi di corsa da una spesa e l'altra, una che andava... Eravamo cinque sorelle. Poi c'erano tutte quelle altre che ci sentivano, che poi il giorno dopo, quando ci vedevamo a collettivo, ne parlavamo. Ma adesso quando ricordo le mie compagne, è un momento di... Mi sento giovane, ardimentosa, piena di voglia di vivere. È bello, anche se ci è costato salute, vita. Poi abbiamo portato un bel esempio, perché quante donne sono venute da noi e sono rimaste con quello che noi dicevamo, che quello che noi facevamo. Ce n'era una che veniva da Quarto Miglio, poverina, una, quella sì che era contadina, veniva da Quarto Miglio, faceva un viaggio praticamente ogni volta che veniva al Governo Vecchio, perché da lì ci venivamo al Governo Vecchio. Nel 59 non era mica come adesso, le mamme erano ancora le mamme. Adesso è diverso. Per fortuna è cambiato, le mamme sono amiche delle figlie, a quei tempi no, erano, per carità, quello no, quello non si fa, il vestito è corto, adesso viva la pace, anche le mamme portano la minigonna. Ah, cioè, come sono contenta. È importante per la nostra generazione e per quelle che sono venute dopo aver avuto, anche senza che una ti conoscesse eccetera, però i passaggi politici che ci sono stati tantissimi, per cui è importante quello che avete lasciato e trasmesso, perché si va sempre un pezzettino avanti, ognuna mette un pezzettino, poi purtroppo le donne pagano caro questo pezzettino, indubbiamente. Sì, no, sai che cos'è? Che noi eravamo praticamente delle mamme, dei normali, non avevamo nessuna, e invece ci siamo trovati in questa avventura, ci ha preso il vortice della politica, del femminismo, e siamo state travolte, perché era troppo bello quello. Io mi ricordo quando scendevamo in piazza, eravamo un fiume, quella della notte, della sera, a buio, ma quanto erano tante, adesso dove stanno? Io mi chiedo, dove stanno tutte quelle ragazze che sono donne grandi, dove stanno, che fanno? Sono rientrate nel vortice della vita normale, stupida, che si fa, che stanno a fare. Non ti preoccupare, ci sono. Ragazze, Bionda Rossa è stata un punto di riferimento per me e per qualche compagna, quindi sono vecchia, però vi ricordo e so che siete in gamba come quelle di allora e che farete sempre meglio, mi raccomando non mollate, Bionda Rossa, viva Bionda Rossa, d'accordo? Ragazze, vi abbraccio, ciao.